America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Boston. Mario Platero, vi dirò fra un momento perché sono venuto qui in questa capitale del Nord-Est, grande centro universitario, ma intanto sentiamo un paio di cose di giornata. Rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules. Buy American and hire American. È partita la campagna Buy American, comprate americano, assumete gli americani, dobbiamo produrre a casa. Donald Trump cerca il diversivo sugli scandali, Russiagate, sul fatto che la riforma sanitaria per ora non va da nessuna parte, ma gli va male lo stesso. Perché? Beh, perché i giornali e le televisioni e tutti naturalmente hanno parlato di che cosa? Beh, del fatto che la figlia che vende i suoi prodotti su internet, già era stata criticata per queste vendite nel momento in cui lavorava alla Casa Bianca, dove produce? Bangladesh, Cina, India, Indonesia e Vietnam. E dunque, al povero Trump, devo dire, non gliene va bene una. Ma oggi, visto che questo è il tenore delle notizie, da Boston voglio parlarvi di high tech. Perché sono venuto a Boston? Venuto a Boston per cercare la nuova frontiera, ne parlo ogni giorno, e dunque vediamole anche in presa diretta queste nuove frontiere americane. Abbiamo parlato dell'automotive, dell'auto elettrica, adesso parliamo di questa tecnologia del Bitcoin, dei gettoni, di questi buoni che ti consentono di comprare con moneta via internet. È una vera e propria nuova infrastruttura. Ne ho parlato con Cristian Cattelini, che è un professore di origine italiana, anzi italiano, che però ha fatto il suo PhD in America e che studia proprio questa nuova frontiera. Mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto: attenzione, perché questa nuova infrastruttura avrà un impatto sulla nostra vita del giorno per giorno non diverso da quello che ha avuto internet a suo tempo. È soltanto questione di quando, non se. E dunque qui ai microfoni di America 24 all'MIT, Cristian Cattelini. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Allora, intanto Christian è un solo andata, perché Christian ha preso un biglietto di solo andata 10 anni fa, ha fatto la Bocconi e poi è venuto a studiare, a fare un PhD in Canada, adesso all'MIT, vero? Sì, sono qui ormai da 4 anni. Cominciamo a spiegare che cos'è il Bitcoin. Bitcoin è un esperimento che è nato, diciamo, intorno al 2008, 2008-2009, nel cuore della crisi finanziaria. Nasce nell'ambiente online dei cypherpunk come una risposta ai problemi dell'industria, del sistema finanziario del momento, ed è essenzialmente una moneta digitale basata su un mix di crittografia ma anche di game theory, quindi di economics. L'idea fondamentale è di avere un meccanismo per trasferire valore, moneta, possiamo pensare come valore, in qualsiasi parte del globo in secondi, a costi zero. Da allora la tecnologia è cambiata molto e sta ancora evolvendo e cercando di migliorare. Chiaramente non è comparabile ai sistemi di pagamento che usiamo tutti i giorni, carte di credito o telefoni, ma sta cambiando e intorno stanno nascendo una serie di altre tecnologie, in un certo senso correlate a Bitcoin, che hanno il potenziale di cambiare molte industrie, come paghiamo contenuti online, come consumiamo media, e anche le piattaforme che usiamo ogni giorno. Ecco, quindi in sostanza quello che lei dice è che questo Bitcoin, che molti dicono è un Ponzi scheme oppure un oggetto di speculazione, non avrà un futuro, in realtà avrà un futuro, cioè va a competere direttamente sia coi pagamenti finanziari tradizionali che con le carte di credito. Ci può dare qualche esempio di come il Bitcoin può funzionare, per esempio, nell'accesso a piattaforme internet, a social network, a giornali elettronici che richiedono un pagamento? Sì, prima di tutto è importante ricordare che in questo spazio ci sono tanti esperimenti. Bitcoin era il primo network di questo tipo, ma ce ne sono molti altri. In realtà Bitcoin nasce con delle esigenze molto particolari: il fatto che è una rete completamente decentralizzata, censorship resistant, che quindi non può essere controllata. Ma la tecnologia sta evolvendo, per cui ancora non si sa se Bitcoin sarà lo standard o se nei prossimi anni vedremo alternative anche molto più efficienti. Per cui non mettete i vostri risparmi in Bitcoin, a questo momento bisogna pensare a Bitcoin come gambling, come speculazione assoluta online. Sì, però lei per esempio mi raccontava, magari raccontiamo la storia di questa piattaforma che ha fatto un finanziamento, si è finanziata online e in pochi secondi ha raccolto una gran quantità di valore. Sì, la cosa interessante è che Bitcoin sta evolvendo in diversi mercati e uno di questi è la produzione e il supporto di contenuti online. Online, quando consumiamo notizie o articoli o video, spesso paghiamo con advertising, guardiamo dei messaggi pubblicitari o dati personali vengono raccolti per poi proporci ancora più advertisement later. Bitcoin e alcune di queste tecnologie stanno cercando di cambiare questo equilibrio, e l'idea è che quando guardiamo contenuto possiamo pagare senza friction, senza troppi problemi online usando queste currency digitali. Un esempio particolare è il Brave Browser, che sta cercando di portare nella stessa piattaforma gli utenti che vogliono guardare contenuto e vogliono leggere buone notizie, i publishers, quindi le compagnie. Dice buone notizie, non fake news, ma esatto, sì, esatto. notizie vere scritte da professionisti, e dall'altro lato anche le compagnie che vogliono magari portare pubblicità in modo che la pubblicità sia meno intrusiva ma anche più rilevante, in modo che se sono appassionato di un certo argomento vedo pubblicità che insomma mi interessa. E quindi la pubblicità non è più la pubblicità tradizionale, ma è un contenuto che un'azienda al consumo, oppure una banca, un'istituzione, un produttore di grande consumo, invece di fare la pubblicità tradizionale sviluppa un messaggio. Quel messaggio mi interessa perché magari parla di come fare delle diete e poi si infila un qualche messaggio pubblicitario dentro, e dunque pago per vederlo. E io come azienda, invece di pagare uno spazio pubblicitario, di fatto pago il consumatore perché venga a vedere questa mia pubblicità, giusto? Sì, direttamente. E poi nel corso del tempo chiaramente questi sistemi diventeranno più intelligenti, in modo che se il messaggio che ho visto non era di mio interesse, la prossima volta ne verrà proposto uno più rilevante. Ecco, però lei mi ha detto anche che questa piattaforma ha fatto una sua raccolta di fondi via bitcoins o via attraverso la loro stessa emissione, i KINS, se non sbaglio? Sì, questo è ancora uno spazio molto sperimentale, explorative. Quello che sta succedendo è che alcune di queste startup, invece di andare da traditional angels o venture capitalists per fondi, hanno lanciato una specie di IPO, in realtà la chiamano initial coin offering. Offrono una specie di gettone digitale che l'utente può comprare. L'aspettativa lì è che questi gettoni aumentino di valore nel tempo, per cui gli utenti che arrivano primi fanno un po' un investimento nella piattaforma. Ma questi gettoni li comprano con dei soldi veri? Quindi fanno poi un versamento di soldi veri in cambio del gettone? Assolutamente, molti sono stati comprati direttamente con altre monete digitali come Bitcoin o Ethereum. Spesso sono le persone che hanno fatto una fortuna con Bitcoin e Ethereum che stanno finanziando questi nuovi esperimenti, ma l'alternativa è di usare un exchange e quindi di convertire euro o dollars per questi token digitali. Ecco, e quando questa piattaforma ha lanciato questa sua offerta sul mercato, che cosa è successo? Hanno raccolto più di 130 milioni in circa 30 secondi. C'è chiaramente da aspettarsi regolamentazione anche in questo spazio. Ecco, siamo però ancora in una fase iniziale. Lei dice che è il momento in cui si sta creando l'infrastruttura, cioè qui siamo veramente sulla sponda del futuro. Ma dal suo punto di vista, questa storia dei gettoni digitali, si sostituirà al nostro modo di usare il denaro nel futuro, e che impatto avrà sulla nostra vita di ogni giorno? Sicuramente la tecnologia dietro Bitcoin e dietro Ethereum, dietro alcune di queste monete digitali, è qui per restare. La cosa importante da realizzare è che siamo ancora in una fase molto sperimentale. È troppo presto per dire se Bitcoin sarà, diciamo, la moneta digitale vincente. Infatti ci sono molte alternative, molti esperimenti in questo spazio. Sicuramente quando guarderemo in 10-15 anni indietro, l'impressione sarà di aver vissuto qualcosa della stessa proporzione dell'avvento di Internet. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ho con me un solo andata, Christian Catalini, professore all'MIT. Allora Christian, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori come canzone del giorno? Visto che abbiamo parlato di Bitcoin e monete digitali, direi Money for Nothing dei Dire Straits. Dire Straits, Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. We got to install microwave. learn to play them drums. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Da Boston è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!